Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. C'è una procura particolarmente attiva in Campania nella lotta alla criminalità organizzata ed è la procura distrettuale antimafia di Napoli. Non che le altre procure siano da meno, assolutamente no, ma il lavoro che incombe sul capoluogo di regione è ovviamente maggiore spesso degli altri. Ebbene, una operazione condotta dal PM Raffaello Falcone recentemente ha smantellato quello che è un tentativo sempre più pericoloso, secondo me, di infiltrazione, perché è quello che avviene fuori dal territorio di origine, quello campano, vale a dire un'operazione che ha smantellato buona parte della cosca Belforte in Campania, ma l'ha smantellata anche nei suoi tentativi di infiltrarsi nell'economia laziale e romana segnatamente. Di questo noi parliamo proprio con il PM Raffaello Falcone. Buongiorno Falcone. Buongiorno dottore, buongiorno ai vostri radioascoltatori. Allora, una cosa... disturbo, ma sto in movimento. No, si figuri. Pure la cena. Buongiorno a tutti, mi dica. Una cosa mi interessava preliminarmente capire. Questo rampollo Camillo Belforte che voi avete arrestato era in contatto con il padre Domenico Belforte, che stava, come diremmo noi romani, al gabbio, cioè era in carcere. Mi domando, ma si poteva, come potevano parlare i due e come potevano trasmettersi il sapere mafioso e camorristico, anche se questo boss Domenico Belforte suppongo che fosse in un regime di carcere duro. Guardi dottore, non per sembrare sgarbato, io purtroppo sulle indagini in corso non posso chiaramente fare alcun riferimento, ma le posso, ecco, le posso rispondere ugualmente dal punto di vista generale. Come sì, ma quello mi interessava. Come giustamente ha ricordato lei dottore, il nostro ordinamento prevede l'ordinamento penitenziario il carcere duro, articolo 41 bis. Nel caso specifico comunque non il Belforte Domenico non era stato, per vicende suoi processuali, non era sottoposto al regime di carcere duro, bensì al regime di massima sicurezza. Non toglie purtroppo che chiaramente in osservanza dei principi diciamo legislativi comunque qualsiasi detenuto, anche il regime di carcere duro, ha il diritto, il sacrosanto diritto, di avere i colloqui con i propri familiari. In queste circostanze chiaramente certo, capita anche con una certa frequenza e capita anche con imputati diciamo sottoposti diversamente da Belforte Domenico al regime di 41 bis che continuano a impartire le direttive. Ma questa operazione che voi avete condotto in un colloquio che noi abbiamo avuto nei giorni scorsi mi diceva sta portando quasi alla consapevolezza di una mutazione genetica da parte della camorra, no? Una volta c'era un'organizzazione triangolare politico camorrista e imprenditore, ebbene mi pare che si stia modificando questa triangolazione, si stia accentrando, no? In un'unica figura apicale tutti questi ruoli che noi abbiamo descritto, è così oppure sbaglio? No, come dice, da un'analisi non soltanto dei dati processuali napoletani ma di tutti gli altri direzioni distrettuali antimafia sul nostro territorio si verifica sempre di più appunto questa tendenza. Qualsiasi organizzazione criminale e anche e soprattutto quella diciamo di matrice mafiosa o camorristica agisce ed opera diciamo per il perseguimento di un unico obiettivo, fare cassa, il profitto, quindi certo, agisce facendo una valutazione tipicamente in imprenditoriali, costi e benefici, ma per poter ottenere questo è necessario diciamo la presenza indefettibile di tre fattori. Il primo, che è tipicamente militare, cioè quello del controllo del territorio, no? Perché attraverso il controllo del territorio si esercita quella che poi è l'elemento caratterizzante delle organizzazioni camorristiche, cioè, ovvero la capacità di intimidazione. E come si ottiene questa capacità del territorio? Come si ottiene questa capacità possibilità di controllare il territorio attraverso l'attività tipica delle organizzazioni camorristiche, ovvero il controllo capillare attraverso l'imposizione di tangenti. Certo. Il provento di questa attività normalmente viene utilizzato dalle organizzazioni mafiose e camorristiche per pagare gli stipendi agli affiliati, per pagare le spese legali, per in qualche modo finanziare le famiglie dei detenuti affiliati, ma questo rappresenta soltanto un piccolo spaccato delle attività dell'organizzazione. Hanno necessità di seguire i flussi economici. E come possono raggiungere questo obiettivo? Inserendosi nel mondo della legalità. Sono sempre più frequenti, e quindi nel mondo dell'attività imprenditoriale, sono sempre più frequenti i casi di concorrenza sleale. Si immettono nelle attività commerciali con proprie imprese imponendo quel determinato prodotto. Assolutamente. Il codice lo prevede, l'articolo 513 bis, e sono sempre più frequenti, ma lo fa chiaramente inserendosi nel tessuto sociale, ma applicando poi le regole che gli derivano poi dalle capacità di intimidazione e poi dell'omertà, imponendo un determinato prodotto. Si impone, addirittura il pane, il servizio delle pompe funebri, addirittura delle pompe funebri, con un controllo, e lo possono fare chiaramente imponendo, andando dai commercianti: voi non dovete comprare questa mozzarella nonostante sia a costo minore e più buona, ma dovete, certo, attraverso l'imposizione tipicamente camorristica, comprare questo prodotto. Lei può immaginare che incidenza ha sulla libera concorrenza? Ne abbiamo parlato infatti spesso di questi temi. Io ringrazio il magistrato Raffaello Falcone per il suo intervento. Grazie a Paolo Corleone in regia, Laura Faggini in studio e Roberto Carullo vi auguro una buona giornata.